I lavori di domani di Anna Marino. Si sta rapidamente trasformando, in conseguenza della rivoluzione digitale, il quadro di riferimento attraverso cui è possibile comprendere il lavoro all'interno del mondo globalizzato. Il mix tra le capacità cognitive e professionali degli esseri umani e quelle computazionali ed intelligenza artificiale delle macchine è sempre più forte. Una figura professionale tradizionale ha senso solo all'interno di un mondo del lavoro relativamente stabile, le cui richieste di specializzazione si inseriscono in un quadro di riferimento lineare. Le nuove figure professionali perdono i loro contorni, sono costrette a forzare i limiti delle proprie definizioni e a sperimentare forme del lavoro che nella maggior parte dei casi non hanno ancora un nome. Ed è per questo che è nata la figura del filosofo digitale, e il master di primo livello in filosofia del digitale è qui. Ce li racconta Luca Taddio. In che cosa consiste il lavoro del filosofo digitale? È la mia materia, io insegno filosofia al DIUM, che è il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine, che peraltro è un'eccellenza anche nell'ambito delle Digital Humanities. All'interno del mio mestiere è quello naturalmente di insegnare la filosofia, fare ricerca, ma anche quello di proporre nuovi progetti. Tra questi ho ideato questo master in filosofia del digitale. È molto importante, e ovviamente le considerazioni che ho letto all'inizio sono delle considerazioni di partenza del master. Da che cosa è nata questa idea del master e che cosa insegna? La sfida, potrei dire anche l'ambizione di questo master, è quello di creare una nuova figura professionale capace di portare i filosofi, o più in generale gli umanisti, all'interno delle aziende. Chiaramente questa è una sfida molto importante, che però nasce su delle basi solide, a mio avviso, perché da sempre gli umanisti sono capaci, i filosofi, di inserirsi nel mondo del lavoro e dell'impresa. Si tratta di dargli degli strumenti in più e di istituzionalizzare questo percorso. Quindi il primo modulo, questo master è diviso in 4 moduli, è dedicato a un ambito più concettuale, più propriamente filosofico. Si tratta di dare una vision sulla filosofia attraverso la filosofia del digitale, e quindi ci occupiamo di filosofia della mente, di filosofia della tecnologia, di intelligenza artificiale e di nuovi media. Il secondo modulo invece è pensato per un approfondimento sulle neuroscienze. Poi, ed è strettamente legato al primo, ci occupiamo di strumenti del digitale, quindi una filosofia del digitale. Un filosofo, un umanista non sarà mai in grado di inventare nuove tecnologie, non è il suo mestiere. Si tratta invece di pensare in maniera creativa a nuove possibilità di applicare queste tecnologie per generare nuove possibilità di business o nuove possibilità di comunicare quello che una certa azienda sta facendo. Questi sono appunto i passaggi per arrivare alla formazione della figura del filosofo digitale. L'obiettivo qual è? Questa nuova figura professionale deve essere in grado di affiancare l'imprenditore per stabilire assieme a lui, in dialogo con l'imprenditore, la giusta strategia per quella determinata azienda. E poi è da essere in grado anche di pianificare una comunicazione e un piano di marketing. Quali sono le possibilità, gli sbocchi per chi vuole intraprendere questo percorso? Beh, sono molteplici, nel senso che l'ambizione numero uno ovviamente è quello di sviluppare un'impresa, e questo sta alle capacità poi del futuro imprenditore riuscire a creare, a generare un certo business. Ma poi naturalmente, se uno si inserisce nell'ambito della piccola media, perché questo è anche un altro punto importante, questa figura può inserirsi in tutte le scale, diciamo, aziendali, sia quelle piccole, le aziende più piccole, ma anche quelle medie e anche quelle di taglio più grande. Si dice appunto che per guardare al futuro i nuovi lavori, i lavori di domani debbano insegnare a imparare, nel senso che bisogna continuamente imparare. Questa figura deve superare anche la barriera magari delle piccole e medie imprese, che non vedono nel filosofo un elemento del business. È proprio della filosofia o del filosofo avere la capacità di tagliare trasversalmente diversi ambiti, di mettere assieme, di avere uno sguardo d'insieme, in questo caso sul digitale. A partire da questa visione d'insieme, poi deve essere capace di acquisire degli strumenti di lavoro. Infatti, l'ultima parte del master è proprio dedicata alla comunicazione, al marketing e quindi ad aspetti più pratico-applicativi, ecco, così come a focalizzarsi sulla strategy. Tu dove ti sei formato per arrivare anche tu a insegnare, insomma, a fare questo mix tra digitale e umanistica? Anch'io ho dovuto, in un certo senso, inventarmi un mestiere, mettermi in gioco. Mi sono formato a Trieste, poi a Edimburgo e poi mi sono messo a fare l'imprenditore. Ho fatto l'editore per molti anni nella mia vita precedente, fino all'anno scorso, quando sono entrato di ruolo all'Università di Udine, dove insegno. L'Università di Udine è il luogo, insomma, di questo master e stanno uscendo già queste nuove figure dalla vostra formazione, dal vostro master? No, abbiamo appena iniziato, abbiamo fatto il primo incontro. C'è la domanda prima ancora che ci sia l'offerta. Come si può aderire a questo master? Da quali basi di partenza, skill, preparazione bisogna arrivare e soprattutto quanto tempo ci vuole per uscire, insomma, come filosofo digitale fatto e finito? Il master è annuale, di primo livello, quindi presuppone una laurea triennale, è aperto a tutti, in particolare ovviamente ai filosofi, agli umanisti, ma non solo, anche ai professionisti. Sono iscritti anche molti professionisti quest'anno al master, che già lavorano, già operano, ma vogliono aggiornarsi, formarsi sulla filosofia del digitale, perché questo master è unico in Italia e, per quanto ne so, anche in Europa. Invito tutti ovviamente a andare sul sito dell'Università di Udine per recuperare più informazioni. È una figura, un filosofo che è calato nella realtà e nella realtà tecnologica. Quali figure ti vengono in mente di filosofi anche del passato che possano incarnare un po' questo nuovo filosofo digitale del futuro? Guarda, non so se rivolgendo lo sguardo al passato troviamo e possiamo trovare le risposte per i problemi di oggi. Io direi invece che si tratta per la filosofia di accogliere le nuove sfide del presente e avere il coraggio di confrontarsi con la realtà di oggi. Insegnate anche i diversi filosofi, Schopenhauer piuttosto che altri, ovviamente a chi magari anche non ha mai fatto filosofia? Sì, certamente, c'è una parte dedicata alla filosofia della tecnica, che è stata una, insieme al problema del soggetto, dei due temi principali del Novecento: la filosofia della tecnica, la filosofia della soggettività, e mettiamo assieme queste due questioni. Fondamentalmente la rivoluzione industriale ha segnalato, insomma, diverse criticità e ha anche dato alcune indicazioni. Ci sono delle linee di pensiero, un'ispirazione per la figura a cui hai pensato? Innanzitutto la filosofia del digitale o il digitale, vorrei dire fin da subito che non tratta solo di informatica. Pensiamo anche al termine stesso: informatica significa informazione. Essendo legata all'informazione, significa che implica già necessariamente una dimensione sociale. Ecco allora che la questione del digitale esce da una dinamica tecnica per rientrare in una dinamica molto più vasta che tocca diversi ambiti, non solo quello propriamente lavorativo, aziendale, ma pensiamo tra le questioni etiche che solleva. Da questo punto di vista ci sono degli autori che invece sono stati maggiormente, come dire, interessanti, più interessanti per le persone che hanno frequentato il corso fino adesso, per che voi volete segnalare, insomma, come letture, giusto per dare anche una dimensione diversa, insomma. Certo, vedo che suscita molto interesse anche la questione del post-human. Il post-umano è quell'ambito di studi che si occupa della relazione tra la nostra soggettività e il nostro corpo rispetto alle tecnologie, che non stanno solo fuori dal nostro corpo ma stanno anche dentro al nostro corpo. Oggi si parla di arte artificiale, di cuore artificiale, ma il futuro qual è? Quando cominceremo ad applicare queste tecnologie naturalmente anche al cervello e per sviluppare ulteriormente le potenzialità del nostro corpo e per sconfiggere il problema della morte biologica. Fondamentalmente il filosofo digitale all'interno delle aziende potrebbe essere un alleato, insomma, dell'imprenditore anche per elevarsi ogni tanto dal reale, dal tecnologico, e anche un conforto e un'anima, insomma. Sì, a volte sembra quasi di occuparci di fantascienza, ma non è fantascienza. Alcuni temi si intrecciano alla fantascienza, ma siamo nella realtà, è solo immaginare com'era la società solo 10, 15, 20 anni fa, guardiamo allora le potenzialità dei prossimi 20 anni e probabilmente molte delle cose che oggi riteniamo essere fantascienza diventeranno realtà. C'era un bel film quando ero ragazzino, io si chiamava Ritorno al futuro. Bene, se guardate oggi quel film, a parte il fatto di tornare nel futuro, tutta quella tecnologia oggi è stata inventata e applicata. Quindi diciamo il futuro è imminente. Il futuro è già adesso. We'll be right back.